sta pensando ad ogni modo per restare, per potermi ritrovare a guardare il mio nome tra i miraggi di questa prigione rinchiusa in una scatola di perle. Sono impassibile, illeggibile, perdente, fragile. Sono quella che voi odiate mandare. Non sono una brutta copia di quello che resta e non voglio restare ancora in una scatola di perle. Non sono meglio di tutta la gente che scosso. Non sono mai stata brava a tenermi il mio posto. Non voglio spegnermi col soffio di una candela. Non posso stare ci può trovare il danno.